Investire informati. E allora, da qualche tempo a questa parte parliamo degli investimenti sostenibili, ovvero quelli che puntano su mercati e società impegnati nella lotta al cambiamento climatico, al miglioramento del clima sociale, ma che sono anche governati in un certo modo etico e capaci di cogliere pienamente bisogni e necessità di lavoratori e cittadini. Ma ci si chiede, caro Mauro, sta sostenibilità rende, ci dà soddisfazione il nostro portafoglio investito in strumenti sostenibili? E questa pandemia ha fatto evolvere in qualche maniera questo settore o anche la sensibilità dei risparmiatori verso questi argomenti? Sta cambiando la consapevolezza dell'investitore? Mi ha incuriosito la storia di copertina di Plus 24 di sabato scorso, curata prevalentemente dal nostro Vitaliano D'Angerio, che salutiamo. Vitaliano, ben trovato, buongiorno. Ciao, buongiorno Deborah, buongiorno agli ascoltatori. Che peraltro non ha curato solamente questa copertina di Plus, ma sta animando proprio una bella parte del sito del Sole 24 Ore esclusivamente dedicato a questi argomenti. Segno che evidentemente la consapevolezza cresce, il grado di interesse su questi temi sta crescendo e quindi bisogna mettere a disposizione strumenti di informazione sempre più dettagliati, caro Vitaliano, appunto al servizio del lettore o del risparmiatore. Che cosa racconta la storia di copertina di Plus di sabato scorso? Guarda, innanzitutto diamo dei numeri, non nel senso cattivo del termine, ma nel senso che sono arrivati a 1.000 miliardi di dollari i patrimoni gestiti dai fondi sostenibili e dagli ETF appunto sostenibili specializzati in questa strategia ESG, che sta per Environment, Social and Governance, ovvero ambiente, sociale e regole di buon governo delle società. Diciamo appunto questo, innanzitutto diamo queste cifre e poi soprattutto diamo le performance, i risultati a 3-5 e da inizio anno dei fondi specializzati in questo settore, facendo vedere chi è andato meglio e chi è andato peggio e cercando anche di sfatare dei luoghi comuni che ormai ci sono da anni in questo settore, ovvero che i fondi sostenibili non danno rendimento, tutt'altro invece. Allora, hai già dato delle indicazioni molto puntuali sulle quali adesso torneremo, prima però hai anche ricordato il concetto portante di tutto il tema di questa mattina e volevamo fissarlo nella testa dei nostri ascoltatori con la prima microschedina di oggi. Mauro, che ne dici? Andiamo subito ad ascoltare il riassunto sul ESG, il nuovo mantra. ESG, il nuovo mantra. Environment, ambiente, social e governance. Ecco il nuovo mantra del mondo finanziario. Dopo la lettera di Larry Fink, capo di BlackRock, il più grande asset manager del mondo, del gennaio 2018, tutte le società di gestione del risparmio hanno deciso di utilizzare il filtro ESG per i loro investimenti, così da puntare su aziende sostenibili o che lo stanno diventando. Allora, 800 24 0024, il numero verde se volete intervenire in diretta per chiederci informazioni su questo argomento, oppure scriveteci al 349-238-6666, inviateci i vostri sms, i vostri messaggi anche su WhatsApp. Direi che è il caso anche di presentare il nostro secondo ospite. Anche perché abbiamo affiancato a un esperto di valore mondiale, quale il collega Vitaliano D'Angeri, un altro esperto di valore mondiale. D'altra parte, sai, Deborah, qui a due di denari non scendiamo. Diamo il benvenuto a Michele Scolletta, che è Head of Alliance per Allianz Networks Italy di Allianz Global Investors. L'ho detto malissimo, Scolletta, mi perdoni. Ripetilo, d'altronde colpa lui sua, ha una carica così complessa. Quindi. Allora, innanzitutto benvenuto, poi lo ripeto. Dottor Scolletta, buongiorno. Buongiorno alle radioascoltatrici e radioascoltatori, buongiorno a voi due. Allora, lei è il responsabile per l'Italia di Allianz Networks, per conto della società Allianz Global Investors, è così, è corretto? Lo ha detto benissimo, l'ha detto in italiano ed è quello che preferisco. Molto bene, allora io chiedo un attimo di pazienza a entrambi perché i temi che vogliamo affrontare sono diversi, dobbiamo capire allora se questo tipo di investimento ESG rende, adesso ci ha spiegato Vitaliano D'Angerio, ci sono comunque molti prodotti, ci possiamo fidare di tutti, abbiamo dei criteri, abbiamo qualche rating, qualche modo di distinguere le cose buone da quelle meno. Tassonomia, la classificazione. 2 anni fa è stata avviata in Europa la tassonomia, cioè classificazione delle attività sostenibili approvata nel giugno scorso dal Parlamento europeo. Ci saranno dunque delle tabelle dove verrà data trasparenza su ciò che è sostenibile, green, sulle attività che possono diventarlo, transition, e su quelle che sono brown, ovvero non sostenibili. E allora, parliamo di questa tassonomia con Michele Scolletta, l'abbiamo presentato prima del collegamento con le borse, si occupa per Allianz Networks Italy appunto di investimenti, e Allianz è tra coloro che hanno anche prodotti molto interessanti. Poi potrete trovare su Plus già di sabato scorso tutta una serie di indicazioni sui risultati. Questa tassonomia, come dire, dottor Scolletta, viene in qualche modo a essere modificata o a diventare più utile con la pandemia, con il Covid? Che succede? Dobbiamo alterarla? Dobbiamo cambiare indirizzo? Sicuramente quello che abbiamo vissuto a seguito della pandemia che ha toccato tutto il mondo ha offerto modo, e quindi ricavarne qualcosa da questa crisi, di sensibilizzare ancora di più le persone verso temi che riguardano appunto l'impegno sociale, ma la salvaguardia dell'ambiente, ma non solo. Il tutto, grazie alla tassonomia, sarà portato ancora di più all'evidenza, perché ovviamente nel passato abbiamo assistito a criteri ESG adottati più o meno arbitrariamente dalle imprese di investimento, appunto di chi si occupa di gestire risparmi sul mercato. Adesso avremo la possibilità di avere dei criteri ancora più stringenti, ancora più determinati e più univoci. Quindi sostanzialmente il mondo degli investimenti si adeguerà sempre di più a criteri facilmente riconoscibili, ed è questo uno dei problemi che ha visto un disinteresse da parte degli investitori nel passato rispetto agli investimenti socialmente responsabili, ma non solo gli investimenti socialmente responsabili, cioè tutto ciò che il termine ESG o ESG ha richiamato oggi all'attenzione. Per cui è importante porre delle regole, è importante porre dei criteri che siano universalmente riconosciuti. Questo sicuramente agevolerà molto e darà molta più sensibilità agli investitori, perché il problema alla fine è di conoscenza. La vostra trasmissione serve a creare conoscenza, serve a dare informazione. L'articolo, o meglio la copertina del Plus, ha un grosso compito anche sociale, cioè di dare ai lettori le informazioni necessarie per poter approcciare a questa modalità di gestione del risparmio, che molto spesso è considerata qualcosa di meno rilevante dal punto di vista delle performance che può generare rispetto ad altri criteri di selezione delle imprese su cui andiamo a investire i denari dei risparmiatori. Infatti Mauro, i colleghi di Plus hanno fatto anche l'ABC per selezionare i prodotti ESG. È un ABC che peraltro vale per il piccolo risparmiatore, ma c'è un ABC anche molto preciso, poi ce lo facciamo raccontare da Michele Scolletta, che le società di investimento seguono per individuare le aziende su cui investire. Poi appunto Scolletta ce lo racconterà. Io voglio tornare da Vitaliano, perché Vitaliano, ma questa cosa che il prodotto green, il prodotto sostenibile, il prodotto di investimento sostenibile rende un po' meno, è una cosa che possiamo definire come da sfatare, una fake news, come si dice con un termine di moda? Sì, assolutamente sì. Guarda, ti do un'altra indicazione, ne abbiamo scritto anche sul Sole 24 Ore. Cioè, esiste, oltre all'S&P 500, l'indice più noto al mondo, no? Quello di Wall Street, esiste adesso da un paio d'anni l'S&P 500 ESG. Ebbene, da inizio anno, basta vedere sul nostro sito, S&P 500 ESG a fine agosto aveva fatto meglio del cugino tradizionale di ben 3 punti percentuali. Quindi questo basta a sfatare qualunque luogo comune. Se a Wall Street investono in questo indice ESG, penso che sia, insomma, basta questo per mettere fine a questa diatriba. Deborah, vuoi che ritorniamo? Sì. Allora sì, ce la facciamo. Volevo raccontare dietro le quinte ai nostri ascoltatori. Allora, raccontavamo prima del fatto che Allianz ha delle soluzioni di investimento che hanno dei rendimenti anche molto interessanti, peraltro hanno retto anche rispetto alla crisi, ma mi interessava capire, Scolletta, qual è il vostro approccio nei confronti delle società sulle quali investire? Qual è il vostro criterio di selezione? Come si compone un vostro fondo di investimento che punta alla sostenibilità? Che tipo di aziende ci sono dentro, come valutate gli imprenditori, i manager appunto su cui investire? Perché c'è un approccio molto rigido e molto serio, quindi non è che è un investimento casuale quello che compone appunto il fondo sostenibile. Assolutamente no, è dal 99 che siamo impegnati a gestire con criteri ESG, quindi di analisi del rischio che può essere generato da una cattiva gestione dell'impresa, quindi il rischio ambientale, il rischio sociale, il rischio che la gestione sia non efficiente. Parlavate prima anche della questione di genere legata ai consigli di amministrazione o al management. Ecco, per noi sono tutti criteri fondamentali per fare delle valutazioni di valore delle aziende che andiamo ad inserire. Ma nello specifico su cosa siamo fortemente impegnati? Sono due le principali azioni che noi svolgiamo a tutela del rapporto esistente fra l'investitore, che è sostanzialmente il mandante, e noi siamo i mandatari. Quindi chi vuole investire su finanza socialmente responsabile o nel rispetto di criteri ESG affidandosi a noi, cosa avrà con certezza? Avrà la partecipazione da parte nostra alle assemblee degli azionisti. Vi faccio un numero: nel 2018 8.535 partecipazioni, nel 2019 9.532 partecipazioni alle assemblee degli azionisti. Quindi significa questo che un gestore di Allianz partecipa alle assemblee degli azionisti delle società, e parliamo quindi di 9.000 società sparse su tutto il territorio mondiale. Esatto. E andate ad avere una presa di coscienza diretta rispetto a come si lavora, come si opera, come si prendono le decisioni. Ma la cosa ancora più forte è che nel 77% dei casi abbiamo espresso il nostro voto sfavorevole a quelle che erano le misure che avrebbero voluto intraprendere il manager delle aziende, mentre nel 23% dei casi abbiamo espresso il nostro voto favorevole. Questo sostanzialmente cosa significa? Un'attività anche, purtroppo devo usare un termine inglese, di stewardship, cioè essere degli steward, degli accompagnatori per quanto riguarda le aziende su cui andiamo a investire i denari dei risparmiatori che a noi ci vengono affidati, quindi guidarli affinché rispettino i criteri che noi andiamo a determinare affinché il nostro fondo, la nostra attività di gestione sia anche socialmente responsabile, ma che cerchi di evitare i rischi che appunto il criterio ESG va ad individuare. Ma il voto sfavorevole, Scolletta, come dire, presuppone anche che poi voi ritiriate l'investimento, o è una minaccia di ritirare l'investimento eventualmente? Devo anche dire che nella maggior parte dei casi il nostro voto sfavorevole ha portato a un cambio di direzione da parte delle aziende sulle quali noi abbiamo espresso contrarietà rispetto all'azione che avrebbero voluto intraprendere. Per cui diciamo qualora si andasse avanti in maniera, come dire, diretta, senza tener conto delle indicazioni di società come la nostra rispetto a criteri non rispettati, è ovvio che questo poi ci impone di uscire dall'investimento, perché dobbiamo, ripeto, rispettare il mandato che gli investitori ci danno. Se non rispetti i criteri per i quali tu sei all'interno di un nostro fondo, all'interno di un benchmark, devo necessariamente ridurre la mia posizione, addirittura chiuderla totalmente. Posso farvi un esempio? Sì. Che non è di stewardship, ma è di analisi approfondita di criteri ESG. Abbiamo visto recentemente una società quotata al DAX in Germania che ha avuto gravissimi problemi di governance. Ecco, i nostri criteri ESG hanno permesso in largo anticipo di uscire dall'investimento da questo titolo, da questa società tedesca. Per cui una grande tutela di analisi del rischio e una riduzione ovviamente del costo per l'investitore, perché detenere questo titolo nel nostro portafoglio, seppur diversificato, implica una perdita. Motivo per cui il dottor D'Angelio prima spiegava, i fondi e i benchmark ESG o SRI, cioè socialmente responsabili, hanno performance superiori a benchmark che vedono al loro interno aziende che non rispettano o che in parte non rispettano questo tipo di criteri. Allora, intanto vi dico che c'è stata l'asta di CTZ e del nuovo BTP indicizzato da parte del Tesoro italiano. Adesso vi darò i dettagli, ma le agenzie raccontano di tassi ancora in calo. Peraltro, questo modo di investire seguendo criteri ESG riguarda solamente, Michele Scolletta, il mercato azionario o anche il mercato obbligazionario? Assolutamente entrambi i mercati, sia il mercato obbligazionario che azionario. Ovviamente il criterio ESG è un criterio di gestione del rischio sostanzialmente, cioè si cerca di evitare il rischio che le aziende non rispettino impegni ambientali, sociali e di gestione delle stesse. Ovvio che questo impatta sia sulla componente obbligazionaria che sia sulla componente azionaria. Addirittura sulla componente obbligazionaria il nostro impegno è sul cosiddetto impact, cioè l'impatto ambientale che può derivare dall'esposizione al debito di una determinata azienda o che l'attività propria di questa azienda ha. Per cui sulla componente obbligazionaria i criteri sono ancora più stringenti, proprio per la natura dello strumento e per il pubblico al quale lo strumento è indirizzato. A proposito di prestiti, mi viene da pensare, il discorso è più generale, anche tutti i sostegni che stanno arrivando, che arriveranno dalla Unione Europea, dovranno essere tutti legati comunque a un impatto green. Sostenibile, green, ecco, non vorrei utilizzare magari questo termine un po' generico, però è così, Vitaliano. Credo che un terzo del Recovery Fund dovrà essere realizzato rispettando criteri green, quindi anche rispettando tutta la tassonomia, e ovviamente questo comporterà non solo questo, ma anche la raccolta di fondi da parte della comunità europea dovrà avvenire attraverso i green bond, quindi sia quello che io do agli stati, sia la raccolta che faccio sul mercato come Unione Europea, dovrà rispettare almeno credo per un terzo i criteri appunto della tassonomia. Però sul greenwashing poi se tornate sarebbero delle cose carine da dire. Ma no, prego. No, dille subito per carità. Diccele subito perché qua il tempo corre. Sì, no, vabbè, la verniciata di verde, no, che viene fatta appunto dalle aziende, ma anche dagli stessi fondi. Infatti il problema dell'ESG e di tutto questo mondo è che c'è una grande confusione per quanto riguarda gli standard. Non esistono standard comuni. La comunità europea è la prima che sta mettendo appunto ordine insieme ai cinesi. Però è stato coniato un termine, taxonomia, perché anche altri paesi vogliono fare questa classificazione, rischia di rinnovare questa confusione. Quindi la speranza è che europei e cinesi si mettano d'accordo e a quel punto saremo noi appunto il riferimento per tutto il mondo. Ah, poi sarà interessante sentire cosa avrà da dire Trump su questi argomenti. Senti Vitaliano, visto che come dici tu c'è ancora molta confusione, quindi bisogna lavorare ancora molto per individuare il prodotto di investimento, ci rivolgiamo ai piccoli risparmiatori, che abbia una politica di investimento secondo questi criteri, esistono anche società di rating che assegnano una pagella a questi fondi e che possa essere anche per noi uno strumento per orientarci in questo panorama? Sì, esistono, sono quasi tutte americane tra l'altro, ce n'era una europea che è stata comprata da Moody's, e il rating ESG è molto importante, ma anche qui appunto non essendoci standard comuni è difficile orientarsi, però sta per arrivare dall'Europa l'ecolabel, questa sorta di bollino verde che verrà messo sui fondi e che di fatto sarà una certificazione europea che orienterà i risparmiatori nella scelta di prodotti. Vitaliano, tra l'altro anche sul sito tu spesso scrivi e segnali appunto le evoluzioni in questo ambiente, sul sito del Sole 24 Ore, www.solesole24ore.com, giusto? Sì, giusto, il canale Sostenibilità, e lì diamo conto di tutta una serie di parametri, non solo finanziari di risparmio, ma anche di energia ambiente, di green economy, anche di normative, con l'aiuto di tutti i colleghi regionali. Ho un'ultima domanda per Michele Scolletta. Lei incontra tutti i giorni moltissimi consulenti finanziari che naturalmente a loro volta devono trasmettere le corrette informazioni al risparmiatore finale su questi argomenti. Mi è capitato molto spesso negli ultimi 2 anni, probabilmente questa platea si sarà ridotta, ma forse qualcuno ancora c'è, te di sentire qualche consulente che mi raccontava: facciamo fatica a comprendere bene lo spirito di questa tipologia di investimenti e quindi quando ci chiedono delle informazioni non siamo ancora in grado di raccontarli bene, questi nuovi prodotti. Che strumenti dobbiamo avere in mano per chiacchierare consapevolmente tra di noi, intendo tra risparmiatore e consulente, insomma, diamo qualche ultima indicazione concreta finale a tutti gli amici che ci seguono. Sì, allora innanzitutto bisogna documentarsi. Noi come asset manager produciamo una quantità industriale di materiale a supporto, il nostro sito è pieno, che va dal report proxy voting di cui ho parlato prima al nostro report proprio ESG, che tra l'altro è uscito recentemente. Il problema è culturale, il problema è di informazione. Si parla di ESG ma non si capisce bene il senso, perché si fa riferimento esclusivamente al green, quindi a quell'impatto cambiamento climatico, Greta e qualche altra cosa del genere. Beh, ma è riduttivo, è assolutamente riduttivo. Non voglio essere polemico, ma io su questo insisto molto. Noi stiamo assistendo, tra l'altro, nel senso di assistere, a molti tesisti, cioè ragazzi che ci chiedono di sviluppare la loro tesi, la loro discussione finale della loro carriera universitaria. Stiamo dando supporto a molti tesisti, a loro forniamo indicazioni ad esempio su come rispettare determinati criteri impatta ad esempio sulla salute dei dipendenti. Immaginiamo un'azienda che non ha cura dei propri dipendenti. Stiamo chiudendo, Scolletta? Chiudo brevemente. Informatevi, chiedete, teniamoci in contatto su questo, visitate anche il nostro sito, ci sono tantissime informazioni, perché bisogna guardare al futuro della Terra in maniera sostenibile. Certo. E guardate anche il lavoro di Vitaliano D'Angerio sul sito del Sole.